Radio 24 e Salone del Libro 2011 presentano L'Italia in 15 libri. Eugenio Montale, Ossi di seppia. Il 12 dicembre del 1975, Eugenio Montale, genovese, riceveva il premio Nobel per la letteratura e a Stoccolma pronunciava il discorso di ringraziamento in cui oggi ritroviamo i temi della sua poesia: la vita come dolore e il conseguente male di vivere di ogni uomo, ma anche l'imperativo morale di perseguire un'etica personale, pur sapendo che la felicità non è alla nostra portata. Sono qui perché ho scritto poesie, 6 volumi. Hanno detto che è una produzione scarsa, forse supponendo che il poeta sia un produttore di mercanzie. Per fortuna la poesia non è una merce, un prodotto assolutamente inutile, ma quasi mai nocivo. La poesia è poco più di un'arma spuntata ed è la cesoia con cui Montale ha indagato l'uomo e il mondo, forzando le catene che ci imbrigliano, alla ricerca dell'anello che non tiene. Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. All'uomo che se ne va sicuro, agli altri è da se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canico o la stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì, qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Non chiederci la parola, letta da Vittorio Gassman, è una delle 23 liriche contenute nella raccolta Ossi di seppia, pubblicata nel 1925. La Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura l'ha inserita tra i 15 libri più importanti dei 150 anni dell'Italia Unita. Il commento di Alessandra Scaglioni. Di Montale si possono dire molte cose: che ha segnato un'epoca, che è moderno, che ha un realismo intriso di pessimismo e poi che è un poeta vero, anche se era autodidatta e non amava i poeti laureati, e che è stato un intellettuale che ha saputo schierarsi, anche se ha identificato spesso il bene supremo con l'indifferenza. E in un paese che di poesia ne legge poca, anzi pochissima, ma ha avuto ben 3 premi Nobel, Montale si studia a scuola. Il consiglio è quello di rileggerlo da adulti, partendo da Ossi di seppia, la sua prima raccolta, e magari da una delle sue poesie più note, più discusse, Forse un mattino andando. E fra tutte le cose che di lui si sono scritte, ne vogliamo ricordare una che invece ha detto lui stesso quando ha ricevuto il Nobel. Era il 1975 e Montale metteva in guardia i contemporanei da un rischio, quello della mercificazione dell'inutile, a cui, diceva, sono sensibili soprattutto i più giovani. E anche in questo aveva fatto centro. La visione negativa della vita non si associava in Montale a un carattere schivo, ma cordiale, socievole, pieno di sense of humor. Ancora negli anni 60 confessava il sogno segreto di vincere una maratona in volata per avere, diceva, un trionfo superiore a quello che qualsiasi altro poeta potesse augurarsi. E per tutta la vita coltivò la passione per la musica lirica, che lo aveva stregato fin da ragazzo. Tu hai cominciato, hai esordito come cantante, d'opera lirica. No, non ho esordito come cantante, avevo aspirazioni in questa direzione. Ma sei stato mai, hai calcato il palcoscenico mai? Sì, ho cantato La calunnia del Barbiere nel teatro di Feltre. Oh, calunnia. Un'auretta assai gentile. Ma il teatro era vuoto. Io avevo dato una mancia al custode. Questa giocosa allegria, come un inatteso contrappunto alla sua poetica del male di vivere, accompagnò Montale per tutta la vita, dal rifiuto del fascismo fino agli ultimi anni milanesi, lontano dalla Liguria e dalle sue riviere. Simili a questi rami, ieri scarniti e nudi ed oggi pieni di fremiti e di linfe, sentire noi pur domani tra i profumi e i venti un riaffluir di sogni, un urger folle di voci verso un esito, e nel sole che vi investe, riviere, rifiorire. L'Italia in 15 libri è un programma di Guido Scotti. Tutte le puntate sono scaricabili all'indirizzo www.radio24.it.